9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon Sant'Enrico, 13 luglio. Allora, la giornata di ieri ha portato, dopo il pessimo lunedì che l'aveva preceduta, dopo il venerdì che aveva dato inizio al sismo, a una specie di precipitato politico, per così dire, di fronte agli spread BTP Bund che arrivavano ben oltre quota 300-340, si è capito che l'attesa senza repliche sarebbe stata un'attesa vana, che ci portava a superare quota 400, e dunque il combinato disposto delle due nuove cornici politiche è questo. Se ho capito bene, un accordo per un Consiglio europeo straordinario, diciamo venerdì, per vedere quale delle diverse ipotesi sul tavolo di intervento straordinario dopo 19 mesi di soluzioni diluite e rinviate sulla Grecia adottare questa volta, mischiando alcuni aspetti di compartecipazione volontaria da parte degli intermediari finanziari creditori della Grecia a sobbarcarsi a una parte del rifinanziamento a lungo in cambio di riscossione minore di rate di interesse del debito che hanno, a una procedura per la quale l'European Financial Stability Facility, uno dei due veicoli creati un anno e mezzo fa, poco finanziati e a patto però che non intervenissero automaticamente, se no i tedeschi si arrabbiano, bisogna autorizzarli di volta in volta. Questa volta ci sarebbe anche la possibilità per l'IFSF di intervenire sul mercato secondario dei titoli, per sostenere i titoli dei paesi in difficoltà, in cambio, rastrellando quei titoli che scendono, in cambio di un'emissione che è un primo passo verso gli eurobond. Se capisco bene, perché le indiscrezioni sono diverse, i piani sono diversi all'esame del Consiglio europeo, questo potrebbe essere la nuova cornice di strumenti aggiuntivi, sempre come soluzione ponte in vista del 2013, visto che prima del 2013 non scatta il nuovo veicolo, quello non straordinario ma ordinario, a disposizione dell'euroarea per dare una mano ai paesi eurodeboli. È un po' singolare questo meccanismo per cui in 20 mesi l'Europa ogni settimana si vede due volte e decide sempre che bisogna rinviare e mai adottare una soluzione drasticamente adeguata al livello delle forze che si muovono sul mercato. Però questa è la prima cornice politica. La seconda cornice politica è quella che è maturata in Italia, ed è maturata perché il Quirinale è intervenuto energicamente a segnalare alle opposizioni e al governo che bisognava mettere mano a un cambio della degenerazione del quadro politico, sia nel governo, sia nella maggioranza, sia nei rapporti tra maggioranza e opposizione. L'effetto di tutto questo sono gli incontri, i contatti, prima poi gli incontri avvenuti ieri tra il ministro dell'economia tornato da Bruxelles, Giulio Tremonti, e l'opposizione, e da quello che si capisce un quadro di convergenza per il quale la manovra, non così com'era ma con rafforzamenti, verrebbe approvata entro venerdì in un ramo del Parlamento e dentro giovedì al Senato e dentro venerdì o al più tardi sabato mattina in contemporanea al Consiglio europeo nell'altro ramo del Parlamento. Si parla a diverso titolo di rafforzamenti della manovra, che è diventata manovra lampo addirittura nei titoli dei giornali. Di sicuro Tremonti ha molto insistito ieri per spostare nel decreto la cosiddetta clausola di salvaguardia, cioè il fatto che i quasi 15 miliardi che vengono nell'impostazione sua originaria dal riordino delle detrazioni e deduzioni fiscali e che erano spostate nella delega fiscale invece entrano immediatamente nel decreto, e quindi il decreto passa quasi a 65 miliardi. Non ho capito bene, quindi non mi sento di dirvi se c'è un rafforzamento vero sulle pensioni come era nella versione originale, cioè innalzamento del tetto dell'età pensionabile per le lavoratrici nel settore privato a 65 anni, che cominciava dal 2012 e entrava fino al regime dal 2018. Così era la versione originale che io avevo visto nella prima versione della manovra, diventata poi, si inizia nel 2020 e si arriva addirittura al 2032. Si parla a vario titolo anche di rafforzamenti, anzi dell'ingresso delle privatizzazioni che non c'erano affatto nel decreto del governo, aprendo ad aperture, aprendo alla possibilità che sia per lo Stato che per gli enti locali, quindi per i servizi pubblici locali, ci siano di quote privatizzazioni. Testi io non ne ho visti, quindi non me la sento di dirvi una cosa per l'altra, fino a che, come San Tommaso, vedere per credere, ecco perché l'Italia ha parole è sempre buona a dire che si assumono misure rigorosissime, eccetera, eccetera. Dopodiché, nella nostra esperienza, sappiamo che bisogna capire solo le cose che leggiamo scritte, perché talvolta poi addirittura anche dopo approvate il Consiglio dei Ministri, anzi quasi sempre cambiano per strada prima di arrivare poi al Quirinale. Vedremo quindi quali saranno gli emendamenti concreti e le nuove norme. Nel frattempo io vi segnalo che è l'atmosfera politica ciò che muove tutti i giornali a commenti. Repubblica punta molto su questo piano privatizzazioni. Repubblica non riesce a trattenere molti dubbi e perplessità intorno alla convergenza necessaria, e dice esplicitamente che insomma l'ipotesi di sostituire Tremonti con Monti è molto, molto dietro l'angolo, per così dire. Il Sole 24 Ore contiene un ritorno dell'editoriale che domenica ha segnato il cambio di passo da tutti i punti di vista di tutta la stampa italiana, perché l'editoriale, quando domenica Roberto Perotti e Luigi Zingale hanno scritto per primi: e guardate ragazzi che qui la manovra o la rafforzate drasticamente oppure con quello che si muove sui mercati per la convergenza dell'eurodebito, della crisi americana, del mancato accordo per il tetto a debito federale del 2 agosto, per l'interesse del sistema bancario internazionale a deprimere le quotazioni delle banche italiane, per tutto questo o voi date un segnale molto forte, quindi rafforzate la manovra, oppure non ci siete, non avete proprio capito quello che sta succedendo. Oggi la coppia Roberto Perotti e Luigi Zingales fa l'aggiornamento di quel editoriale e trovate 10 punti di concrete proposte di come rafforzare la manovra, a cominciare da privatizzazioni di almeno 140 miliardi con un risparmio di 5 miliardi di interessi l'anno. Quindi, come vedete già dal primo punto, capite che è una proposta drastica di quelle che passerebbe nel governo Giannino Sapelli, di cui parlavamo ieri, dubito assai in Italia. Comunque leggeteli. Il secondo punto è esproprio della moderna mano morta per 50 miliardi con un risparmio di circa 2 miliardi di interessi l'anno, e per mano morta dei nostri tempi sono le fondazioni bancarie, quindi pensate quanto i due autori sono, per così dire, energici nelle loro cure. Immaginate solo che cosa avverrebbe nel mondo delle fondazioni bancarie di fronte a un provvedimento di questo tipo. Terzo punto, privatizzazione delle municipalizzate per 30 miliardi. Quarto punto, riduzione dei costi della politica circa 8 miliardi. Questa è la risposta di Perotti e Zingales a chi dice che si taglia poco dai togli della politica. Quinto punto, taglio di sussidi e agevolazioni alle imprese 5 miliardi. Io dico che su questo si può fare di più, avendo studiato bene la riduzione delle detrazioni, comunque loro dicono 5. Sesto punto, eliminazione dei progetti faraonici inutili, 3 miliardi. Settimo punto, taglio delle pensioni inique e altri interventi sulle pensioni, 6 miliardi, quindi come vedete non sovraordinato rispetto alle altre poste. Poi, proposta numero 8, taglio degli stipendi pubblici più alti, 5 miliardi, taglio, non contenimento degli adeguamenti, taglio. Proposta numero 9, aumento delle rette universitarie, 3 miliardi, avete capito bene, come in Gran Bretagna, aumento delle rette universitarie, a chi può, 3 miliardi. Decimo punto, addizionale IRPEF. Perché loro dicono con queste misure si risparmiano circa 38 miliardi non riducendo la crescita ma rivitalizzandola. Restano ancora 22 miliardi delle perdite con maggiori entrate. Ma io non lo so, questa è proprio, non è un'impostazione di quelle che mi persuade molto. Io non sono per l'addizionale IRPEF, ma non sono per le patrimoniali, non sono per le addizionali pressione fiscale, non sono di quelli che dicono non mettiamo mano a tagli tali da poter coprire anche meno tasse. Io la penso così, siamo rimasti praticamente io e la mia ombra e il mio povero gatto spelacchiato. Quasi nessuno delle persone serie che conosco ritiene più perseguibile questa strada in Italia, dicendo non dire sciocchezze, perché tutte le volte che dici che si possono abbassare le tasse dai solo una mano a chi vuole fare più deficit. Mi dispiace di questo. Quali sono gli ospiti di oggi con cui interrogarci su questo nuovo quadro politico italiano europeo, dove si va con questo governo, con questa nuova atmosfera politica di convergenza, e cosa succede? Ricordate che venerdì c'è un'altra asta di titoli italiani, quindi aspettatevi che ci si riprovi per capire se il punto e mezzo pieno di rendimento maggiore che abbiamo incorporato nell'asta di ieri venga confermato o peggiorato. Io ricordo a tutti che l'innalzamento di 100 punti base nella curva del totale dei rendimenti del complesso del debito pubblico italiano nelle sue diverse durate e scadenze implica nei 4 anni successivi 1,5 punti di interessi di debito pubblico in più dovuti. Ecco, quindi se vi rendete conto che noi in 18 mesi avevamo incorporato 150 punti base di maggior rendimento e abbiamo beccato 1,5 solo nell'asta di ieri, e gli spread erano ancora maggiori, ecco, capite qual è il rischio. Il rischio è quindi di avere un'incorporazione al prossimo trimestre, se si dovessero stabilizzare questi differenziali aggiuntivi di 20, 25, 30 miliardi di euro di maggiore interesse in più rispetto ai 25 che già avevamo accumulati, che il governo prevedeva entro il 2014. Allora, gli ospiti di oggi, innanzitutto appunto uno degli due autori dell'editoriale del Sole 24 Ore che vi ho citato oggi, il professor Roberto Perotti, che insegna politica alla Bocconi. Buongiorno professore. Buongiorno. Francesco Rutelli, presidente di Alleanza per l'Italia. Buongiorno onorevole Rutelli. Buongiorno. Onorevole Rutelli, comincerei da lei. Ci dice, secondo il suo stato dell'arte, le sue informazioni, i contatti che ha avuto, qual è il vero significato e come interpretare questa convergenza, su quali punti della manovra, in cosa ha capito che verrà rafforzata e poi cosa succede del rapporto tra voi e il governo dopo? Diciamo, il messaggio fondamentale di questa convergenza è sul metodo, cioè noi siamo consapevoli che è un momento in cui manca la fiducia nei confronti dell'Italia per molti motivi e che lei Giannino ha messo in rilievo ovviamente, e cioè riassumendo, ne vedo tre: il governo si è indebolito molto sul piano politico e ha delle lotte interne violentissime che dividono quelli che sono gli assi portanti del governo, in primo luogo il Premier e il Ministro molto forte, molto potente dell'economia, quindi c'è una debolezza di fondo che non si era mai registrata in questi anni. Secondo, esiste una scarsa credibilità che questo governo politico sia in grado, poiché proietta il grosso delle misure, delle decisioni sul 2013-2014, di arrivarci, poiché siamo nel pieno della tempesta a metà 2011, ai mercati, concetto che chi ci ascolta sa bene interpretare nei suoi aspetti di oggettività per un verso e di scommessa per il guadagno per l'altro, ai mercati questo non convince, dunque rappresenta una ghiotta occasione per fare soldi sulle criticità dell'Italia. Terzo, è una manovra che viene soprattutto ritagliata su aumenti di tasse e di prelievi e alcuni tagli di spesa, ma che manca drammaticamente dell'accento sulla crescita. Se noi consideriamo che il problema numero uno del nostro paese, che è cresciuto dello 0,2% negli ultimi 10 anni, no? E che oggi, se noi non torniamo a crescere del 2%, difficilmente troviamo la capacità di finanziare tutto ciò che ci attende per riportare il debito pubblico italiano dal 120% del PIL al 60% atteso e richiesto a livello europeo, ecco le condizioni della difficoltà, qui enorme. Qui l'opposizione non può che dire, dissentendo, criticando e non approvando la gestione economica del governo, noi avvertiamo il dovere di lanciare ai mercati e all'opinione pubblica un segnale di responsabilità, si approvi anche in 48 ore questa operazione economica, cerchiamo di migliorarla. Perotti, da quello che ha capito, io ho ricordato i 10 punti del vostro secondo articolo di oggi, ma da quello che ha capito leggendo oggi i giornali, per il tempo che ha potuto dedicare a questa attività, siamo in presenza di un ipotetico rafforzamento, vedere per credere, ma da quello che dalle indiscrezioni più o meno lontanamente adeguato rispetto alle proporzioni e ai puntelli che bisogna mettere, viste le forze del mercato che giustamente, secondo me, scommettono sull'euro debolezza e sul quarto debito pubblico al mondo, oppure no, da quello che ha capito? Beh, premesso che io sono un outsider totale in questo campo, ma la mia impressione è che non ci sia la volontà da parte di nessuna delle due, dei due schieramenti, per diversi motivi, di fare quello che sarebbe necessario, che a mio avviso è una manovra molto più forte e subito, mentre la manovra attuale, come sappiamo, essenzialmente i primi 2 anni non esiste, contrariamente a quello che si vuole far credere, e viene tutta posticipata alle calende greche quando ci sarà un altro governo e magari un'altra maggioranza. non credo che l'opposizione abbia interesse e la volontà di fare quello che bisognerebbe fare, cioè una grossa manovra adesso, men che meno c'è il governo ovviamente. Voi dimostrate, conti alla mano, sia pure toccando temi abrasivi, capita anche a me, che l'azzeramento del deficit si può fare in realtà con una prospettiva di tempo rapido, rapidissimo, non l'orizzonte dei 3 anni, che questa poi è la condizione per crescere, vero? Sì, ovviamente le nostre, cioè è una scommessa perché non certo. Abbiamo la bacchetta magica, ma tutti hanno giustamente messo in evidenza che non c'è solo un problema di disavanzo e di debito, ma anche un problema di crescita, però è facile dire bisogna crescere, ogni volta l'opposizione, qualunque essa sia, dà sempre colpa al governo, qualunque esso sia, di non fare abbastanza per la crescita. Il problema è che nessuno di noi sa che cosa bisogna fare esattamente per la crescita. L'altro problema è che se uno dice dobbiamo trovare il 4% del PIL in un anno per ridurre il disavanzo, la reazione immediata di tutti è così facendo uccidete l'economia e quel poco di ripresa che c'è. La mia impressione è che l'accento sulle liberalizzazioni che tutti mettono per far ripartire la crescita sia giusto, ma sia un po' eccessivo. Nel breve periodo non è ovvio che siano sufficienti e poi il loro esito è incerto. Il nostro punto di partenza è per fare ripartire la crescita, un nodo essenziale è quello di togliere i lacci e lacciuoli del clientelismo politico, del sottobosco, dell'interfaccia fra economia e politica, che essenzialmente toglie prospettive, ma soprattutto ai giovani. Quindi per fare questo c'è poco da fare, bisogna disboscare il sottobosco, quindi le privatizzazioni sono un punto di partenza fondamentale. Il taglio dei costi a politica non è solo un modo per fare cassa, che è importante, ma è anche e soprattutto un modo per eliminare questo sottobosco. Ci ha raggiunto Francesco Boccia è coordinatore delle commissioni economiche del gruppo del PD alla Camera, e nel ringraziarlo chiedo a Francesco Boccia, oggi ci sono alcuni quotidiani, per esempio La Stampa, che dedica alcune analisi, questa è firmata da Federico Geremica, con un titolo: il bisogno di coesione mette in crisi l'opposizione. La Stampa dedica una pagina intera a questo argomento, sotto la fotografia che accomuna Giorgio Napolitano, il capo dello Stato, e Pierluigi Bersani. E il secondo titolo della pagina è: il PD dopo il varo il governo vada via. È vero che questo bisogno di coesione mette in crisi l'opposizione? In che senso e quali sono i limiti e i contenuti precisi, come ho chiesto a Rutelli, lo chiedo anche a lei, della convergenza pattuita o ieri o in via di, per così dire, pattuizione con il governo sulla manovra? Ma no, non mette in crisi l'opposizione. Certo, all'opposizione non si può chiedere sempre senso istituzionale, senso del dovere, perché noi questo senso lo abbiamo sempre dimostrato. Nella scorsa legge di stabilità c'erano tutte le condizioni per aprire la crisi, come è noto il gruppo IFLI era pronto dall'inizio di novembre, su richiesta del capo dello Stato tutti i partiti di opposizione a partire dal Partito Democratico decisero di accettare il confronto sulla tenuta del governo quasi un mese e mezzo dopo, il famoso 14. E oggi il senso delle istituzioni ha portato Luigi Bersani. Non si sente più niente, quindi dobbiamo a questo punto sospendere il collegamento. Posso chiedere a Francesco Rutelli che credito da lui personalmente all'ipotesi che dopo questo passaggio rapidamente ci sia un cambio nel centrodestra di qualunque tipo rispetto all'impostazione che avevamo visto fino a sabato, domenica scorsa nel governo? Ci crede? Ma guardi Giannino, intanto sottolineo che in Parlamento ci sono 3 coalizioni, ce n'è anche una di centro, cosiddetto terzo polo, che oggi al Senato presenta un ordine del giorno con una proposta complessiva molto più risoluta. Non so se incontrerà i desiderata dei nostri interlocutori, il professor Perotti ed altri, ma nella quale ci sono indicazioni per il pareggio di bilancio nella prossima legislatura, quindi non solo come un fatto di stabilità. Io credo dobbiamo prendere in esame, come la Germania, di inserirlo nella Costituzione. È un paese che non si può più permettere di vivere non potendo più fare le svalutazioni competitive, come sappiamo bene, il nostro, con un disavanzo annuo avendo il debito che ha, e credo che sia il caso forse anche di prenderne atto come una solenne decisione che si era costituzionalizzata. Secondo, noi presenteremo delle proposte per le liberalizzazioni. Vorrei sottolineare che nel testo iniziale del governo la principale liberalizzazione in questa manovra era la vendita di caramelle nei distributori di benzina. C'erano anche nel testo originario c'erano anche, per esempio, abolizione degli esami di Stato di alcuni ordini professionali. L'apertura dei negozi. Questa, io sono una persona senza pregiudizi, ma non la posso passare. Io ho fatto il sindaco di Roma dal 94 e ho liberalizzato l'apertura dei negozi nel 94 la domenica. È normale, insomma, ne parliamo 15 anni dopo, una cosa assurda. Allora, è chiaro che le liberalizzazioni, però, fatemi dire, coinvolgono non soltanto le inadeguatezze della politica e una politica pervasiva, come giustamente si diceva, e clientelare, vero, ma anche la capacità del regolatore di migliorare gli attori economici, perché in Italia, attenzione, referendum sull'acqua e i servizi pubblici locali, nei quali ho testimoniato votando no la mia opinione liberale, e siamo stati 5%, in pochi, fino alla prova del contrario, perché tutto è stato ovviamente assorbito dalla dinamica politica, però conteneva anche una sfiducia nei confronti, diciamo, del mondo del capitalismo italiano, preoccupante per certi versi. Quindi, secondo me, nelle liberalizzazioni c'è non solo la necessità di rafforzare la crescita, cosa che, se parliamo di servizi pubblici locali, più concorrenza certamente la porterebbe, ma c'è anche un sostegno, diciamo, ad un sistema di mercato, ad un capitalismo italiano che ama molto i mercati protetti, chiaro? Quindi il problema non riguarda solo la politica, e mi piacerebbe ogni tanto sentirlo dire, perché la politica ha tante responsabilità, ma se mettiamo in fila quanto si spreca di incentivi inutili alle imprese di natura clientelare, sappiamo che facciamo due manovre quest'anno, non una sola. Per quanto riguarda il merito, mi faccio anche dire un'altra cosa, Giannino. Se ci allarghiamo un attimo dalle nostre dolorose, difficili, ma alle quali dobbiamo porci con determinazione, vicende italiane, e guardiamo un po' oltre, vediamo che l'economia cinese è cresciuta del 9,5% nel secondo trimestre. Sono, per diversi aspetti, buone notizie. Però se le metti a paragone con quello che succede negli Stati Uniti, dove si sta discutendo della possibilità di un nuovo stimolo, hai visto, la Fed sta discutendo al suo interno di un nuovo stimolo, mentre sono costretti a mettere un tetto all'indebitamento drammatico e rischiano il default, parola mai pronunciata, credo, nella storia da un presidente degli Stati Uniti, comunque una storia recente. La Francia ha cosa enormemente importante, ha dichiarato, prende atto che non ha più i soldi per le sue ambizioni politiche. Questo è il titolo di Le Monde sul fatto che gli costano troppo, inclusa la Libia, incluso l'Afghanistan, i mezzi militari, e questo per la Francia sappiamo quanto significa, quanto costa. Insomma, abbiamo un mondo in enorme trasformazione, all'interno di questo l'Italia deve dare un segno di stabilità sostenuta e di capacità di riforma. La fermo perché siamo in pubblicità. Ha fatto bene a ricordare l'emissione in Costituzione dell'azzeramento del deficit, della parità di bilancio. È una cosa che parrebbe al centro anche dei contatti bipartisan. Se voi avete la vostra proposta, io sono per la linea tedesca integrale, lo diciamo da un anno, compreso quindi l'interpretazione del loro equivalente del nostro articolo 53 della Costituzione in materia di capacità contributiva come limite intangibile da interpretare ogni anno in Parlamento, del tetto del reddito personale e familiare che va considerato intangibile per ogni presa fiscale dell'ordinamento. Questa cosa che ha spinto i partiti in Germania da più di 10 anni a doversi confrontare con il tetto massimo intangibile li ha portati a un'asta competitiva al ribasso di questo tetto, come ovvio sotto gli occhi dei cittadini ogni anno, e questa roba che ha fatto scendere di quasi 7 punti la pressione fiscale e la spesa. Nel frattempo abbiamo un'altra cosa che si innesta per il tempo. Sono tutti in rimbalzo per contatti politici, quindi chiedo a Francesco Boccia di aspettare un secondo e di Roberto Perotti di non andarsene, perché con lui dobbiamo concludere. Ma ci abbiamo per 5-7 minuti Osvaldo Napoli, presidente dell'ANCI, vicepresidente dei deputati del PDL, che credo tra l'altro sia fresco di incontri politici anche lui, per capire, e gli chiedo come a loro, limiti aspetti concreti di questo patto di convergenza tra governo e opposizioni, cosa aspettarsi dalla manovra blindata di nuovo rispetto a quello che conosciamo, e che interpretazione politica dà a questo tentativo di coesione nazionale? Prego, onorevole Napoli. Ma io credo certamente che il tentativo di coesione nazionale è andato a buon fine, da quello che credo, al di là delle differenziazioni, perché voteranno contro la manovra il centrosinistra, però credo che sia un buon esempio che forse avremmo dovuto applicare anche in precedenza su tematiche che riguardano il paese, l'importanza anche economica del paese. L'unità di intenti è ben venga, ecco, quindi la riteniamo estremamente positiva, innanzitutto perché il presidente Napolitano ha svolto direi un lavoro molto molto capillare, però voglio anche ricordare che il presidente Berlusconi aveva lanciato nel suo ultimo discorso alla Camera in occasione della discussione per quanto riguardava i nuovi sottosegretari, aveva mandato un messaggio di unitarietà a tutto il Parlamento. Credo che il senso di responsabilità, in questo caso vado sulla tematica che mi può interessare in questo momento, il senso di responsabilità dei comuni, capiamo l'emergenza, devo dire che siamo sempre pronti a elementi positivi, ad un tavolo che discuta la manovra. Certo, prima forse all'inizio eravamo stati un po' dirompenti, oggi capiamo che invece la situazione è diversa, però pur essendoci una situazione diversa siamo ottimisti che il ministro Tremonti accolga anche in parte alcune nostre richieste, la riduzione del taglio del fondo di riequilibrio del federalismo fiscale. Credo che sia il minimo, perché se no il federalismo fiscale a quel punto diventa difficile l'applicazione. La norma sui comuni virtuosi che leggo nei giornali di oggi ha effetti un pochino paradossali nei confronti del 95% dei comuni italiani, quindi mi pare che qua sopra ci sia anche qua la disponibilità di Tremonti del governo. E poi direi l'eliminazione, ma che riguarda non più un dato oggettivo in termini finanziari di costo, la soppressione che limitano l'autonomia dei comuni. Ecco, mi pare che questi siano gli elementi più importanti che noi certamente abbiamo e buttiamo nel tavolo per l'approvazione della manovra. Ma dalle sue contatti con il governo, qui sto parlando in qualità di responsabilità ANCI, quindi non come esponente della maggioranza, sì, si sente di dire che il tavolo, il governo lo apre anche sull'ammontare dei tagli, perché erano più 12-13 miliardi complessivi tra comuni e regioni. No, però, ascolti, siamo tutti consapevoli al cosiddetto mantenimento dei saldi. Okay. Quindi su questo, ripeto, la situazione è talmente difficile e pesante che noi stessi, pur essendo fortemente penalizzati, nonostante che abbiamo dimostrato negli anni precedenti di essere la parte più virtuosa della pubblica amministrazione, no, noi siamo consapevoli di una situazione di emergenza. Quindi noi siamo ottimisti però che a parità di saldi quanto io ho detto in precedenza si possa raggiungere. Va bene, io ringrazio. Io ringrazio voi e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a lei. C'è anche tra le questioni trattate oggi sul Sole, molti in ascolto mi chiedono: ma che fine ha fatto allora per esempio la norma sull'ammortamento su cui hai fatto una trasmissione? Quella salta. Il ministro Tremonti si è personalmente impegnato, ha riconosciuto che è una solenne stupidaggine scritta dall'amministrazione. Quindi l'1% che praticamente diceva a tutti i concessionari pubblici, ma a tutte le aziende di private equity, no grazie, non abbiamo bisogno dei vostri soldi per finanziare opere, infrastrutture e così via, quella salta. Purtroppo non salta, questo mi dispiace, io personalmente sono radicalmente contrario, l'imposizione sul conto titoli, l'aumento dell'imposta di bollo, non salta ma diventa progressiva, che è la maniera per accontentare chi in Italia pensa che sia la distribuzione il maggior problema. Quella è una mini patrimoniale che scoraggia gli italiani da investire in titoli in equity a lungo periodo e comunque grava anche sui bot, perché i bot voi in banca li mettete su un conto deposito titoli, quindi è una stupidaggine, è un omaggio ai tempi che corno dove bisogna tassare la finanza, ecco, però tassare, quello significa tassare medi risparmiatori e resta ma diventa progressiva, quindi sono sincero nel dire le cose che non mi convincono. Onorevole Boccia, riprendo da lei perché si era interrotta la linea, allora eravamo al punto di dire, certo per l'opposizione la difficoltà, ma e però a lei la palla. No, dicevo, Bersani ha dato la sua disponibilità in un momento difficile, oggettivamente, in un momento nel quale venerdì pomeriggio, venerdì sera, bisogna portare un'unica voce in Italia rispetto al vertice che è stato convocato da, con i capi di Stato e i capi di governo, ma lo sottolineiamo, è l'ultima volta, perché altrimenti qui raccontiamo storie diverse. Questa è la nona manovra finanziaria negli ultimi 24 mesi, perché io ci metto dentro anche i vari decreti salva banche, salva famiglie, salva imprese, quelli per lo sviluppo, e ne abbiamo fatte 9 e ogni volta la durata di queste manovre non va oltre il trimestre, al quarto mese già ci si rende conto che i numeri sono sbagliati e ci ritroviamo un ministro dell'economia che ci dice il giorno del voto questa è l'ultima volta. Questa volta lo diciamo noi, è l'ultima volta, e l'abbiamo detto in maniera molto chiara a tutti, il capo dello Stato ne è consapevole. Lunedì noi chiediamo al governo di farsi da parte e riteniamo che non sia adeguato questo governo. Guardi che Tremonti è responsabile dell'economia del nostro paese da ininterrottamente, escludiamo i 20 mesi tra il 2004 e il 2005, tra l'altro contestato e criticato da Tremonti, e oggi ce ne vorrebbero tanti, vado a schioppa. A parte quei 20 mesi, rispetto ai quali, lo voglio ricordare a Perotti, noi abbiamo tentato di fare una grande operazione di redistribuzione, non ce l'abbiamo fatta sulle liberalizzazioni, e convengo sul fatto che sia un'emergenza, ma le liberalizzazioni sono quelle vere, quelle che hanno consentito a me 12-13 anni fa di vendere casa via fax quando vivevo in Inghilterra. Giannino, lei conosce bene i meccanismi. Oppure quella che ti consente se sei un giovane precario, di comprare casa perché c'è qualcuno che garantisce per te. Però torniamo a lunedì. Lunedì non ci sono alternative. Venerdì c'è questo vertice e noi avevamo il dovere di garantire l'approvazione di questa manovra. Tra l'altro, quello che sta succedendo non è mai successo nella storia della Repubblica: in 5 giorni 2 rami del Parlamento approvano una manovra. Noi ovviamente voteremo no. Però, perché no, la manovra è iniqua. Mi faccia fare la parte dell'avvocato del diavolo. Ipotizziamo che l'approvazione di questa manovra, per come e per quanto verrà rafforzata, lo vedremo nelle prossime ore, non basti, perché le forze sui mercati internazionali contro l'Italia, ma voglio dire sulla mancata tenuta dell'euro, perché stiamo parlando ormai di questo, siano così tanti che resti la scommessa negativa. A quel punto cosa si fa? Si resta coesi e uniti come una legione tebana, o invece vale comunque il ragionamento da lunedì prossimo per il PD? Guardi, ma cosa serve restare abbracciati, uniti per finire tutti insieme nel burrone? Nel burrone ci siamo già, purtroppo. Alcune misure dovevano essere prese in questi anni, non sono mai state prese per mancanza di coraggio e, mi permette di dire, anche per mancanza di visione. Noi chiediamo, cioè, un governo di unità nazionale lo si fa eliminando chi ci ha portato fin qui. Cioè non è possibile pensare che con questa maggioranza si faccia un governo di unità nazionale. Non ci sono le condizioni politiche, ma questo è evidente. Ma con questa maggioranza, che chi di persona dovrebbe saltare dal governo per ipotizzare una compagine che porti a fine legislatura se resta l'allarme sui mercati internazionali? Chi dovrebbero saltare contemporaneamente, secondo lei, sia il Premier sia il Ministro dell'Economia? Guardi, non ci sono le condizioni per confermare nessuno per quanto ci riguarda. Ho capito. La soluzione migliore per noi è andare immediatamente al voto. Siccome ci rendiamo conto che in una situazione di questo tipo può esserci la necessità di un governo di unità nazionale, quello lo decide il capo dello Stato, è lui che fa le consultazioni. Noi quello che sottolineiamo da venerdì sera è che per noi è finita, diciamo, la disponibilità a fare strappi anche al funzionamento delle istituzioni è finita, e del resto le chance e le opportunità, la coppia Berlusconi-Tremonti le hanno avute, i risultati sono questi. Grazie, grazie all'onorevole Boccia, quindi no a un governo di solidarietà nazionale, meglio il voto difficilmente compatibile se resta l'allarme, dico io, però insomma è una risposta chiara. Dal punto di vista delle forze che abbiamo visto in campo in questi ultimi giorni, ma in realtà nell'ultimo anno e mezzo da che si è aperta la danza dell'eurodebito con il caso greco, lei è tra coloro che sono convinti che c'è un problema sistemico di inadeguatezza complessiva della classe politica europea, e che non esime l'Italia, ma voglio dire significa che la questione è ancora più ampia e obbliga a pensare che si può fare la manovra, ma a questo punto comunque l'allarme continuerà e l'attacco al quarto debito pubblico, su cui è facile fare soldi al ribasso, continuerà. Oppure possiamo pensare invece che fino a che si trattava di debiti complessivi, complessivamente esigui sul totale dell'euroarea, come quelli greci, ma anche greci e portoghesi, è un conto, ma poi quando si arriva all'Italia, come è avvenuto dalla settimana scorsa, in effetti le cose cambiano e anche l'adeguatezza delle risposte nazionali, per così dire, ha un diverso impatto sulle forze che scommettono al ribasso. Lei a che scuola aderisce? Dunque, sulla prima parte della domanda, no, io non penso che ci sia un problema di inadeguatezza della classe politica europea, anche perché è una di quelle accuse facili da fare, e chissà se sarà così adeguata o inadeguata. In ogni caso è stato eletto e non vedo in giro gente enormemente superiore a lui come statura politica, non so neanche se sia come statura politica inadeguata, lo stesso per la Merkel. Quindi secondo me non è un problema di leadership europea e non è neanche, come tanti sostengono, un problema dell'Europa che si è trascinata per un anno a risolvere il problema della Grecia, perché di fatto era un problema complicato e queste cose nessuno sa come trattarle all'inizio, soprattutto ci si va a tentoni e si sono tentate varie iniziative. Il problema dell'Europa è che tutti tentano di far pagare la Germania, tutti accusano la Germania di non voler fare quello che vogliono fare loro, perché per loro è facilissimo, quello che vogliono fare loro è facciamo pagare la Germania, ovviamente la Germania dice no grazie, quindi quello è il vero problema dell'Europa. Sulla seconda parte della domanda, sì è vero, finché si tratta di Portogallo, Grecia e un po' Irlanda sono noccioline, quando si comincia a parlare di Spagna e d'Italia non c'è risposta europea che tenga, nonostante quello che si dice in giro, un fondo europeo anche di 1.500 miliardi, che non succederà, non sarebbe in grado di fronteggiare un problema italiano e spagnolo allo stesso tempo. Oh, per misure come quelle che lei stamattina propone insieme a Zingales sul Sole 24 Ore, c'è bisogno di che cosa in realtà? Perché tecnicamente il conto è fatto, cioè si tratta di tradurre in norme tecniche. Che cosa manca da una parte e dall'altra, per così dire? L'onorevole Rutelli ci ricorda che c'è anche il centro, ovviamente, ma cosa manca secondo lei? L'adeguatezza della loro capacità di interpretare l'esigenza dei tempi, la deliberata volontà di non suscitare reazioni su alcuni dei 10 punti che toccate? No, ma anche il fatto che sono cose difficili, cioè anche qui se io fossi al governo sarebbe difficile per me attuarle, perché vuol dire in alcuni casi andare a toccare delle lobby molto potenti, in alcuni altri casi andare a toccare degli interessi molto diffusi, quindi perdere centinaia di migliaia di voti, magari guadagnarle altri da altre parti anche. Quindi non voglio dire che sia una cosa facile, non voglio fare facili accuse alla classe politica, sono degli incompetenti, degli incapaci, è difficile. Se io fossi al governo avrei le stesse difficoltà. Nel dire che avrebbe le stesse difficoltà, tuttavia, un giudizio complessivo, non dico politico, ma si può dare su come l'Italia in questi anni ha vissuto, siamo da 19 mesi all'interno della crisi dell'eurodebito. Si ricordavano i provvedimenti economici assunti da altri grandi paesi europei che hanno fatto un mix più improntato alla crescita che a rigore. Non è un mistero che altri paesi si potevano permettere deficit pubblici più elevati del nostro, a cominciare dalla Francia che resta ben oltre il 7%. Da questo punto di vista il giudizio complessivo sulla tenuta complessiva, il più basso deficit insieme alla Germania di questi anni, resta positivo o, per come è stato fatto secondo lei, comunque si è prestato il fianco anche poi all'esplodere della crisi? È positivo il fatto che Tremonti abbia resistito alle tante sirene che volevano aumentare il disavanzo pubblico all'interno della sua maggioranza e nell'opposizione, naturalmente mantandole sempre con lo slogan della crescita, sono spese che sono necessarie per la crescita, e con quella slogan si tentava di far passare tutte le peggiori nefandezze. Quindi quello è positivo, secondo me è un merito di Tremonti. Il fatto è che i mercati guardano non solo al disavanzo primario, cioè al netto di interessi, su cui l'Italia, come sappiamo, è al top in Europa, ma guarda anche al disavanzo totale, cioè con gli interessi, in cui l'Italia non è messa tanto bene, e soprattutto guarda allo stock del debito pubblico, in cui l'Italia ovviamente è messa peggio di tutti in Europa, e al terzo debito pubblico totale, non in percentuale del PIL, dopo Stati Uniti e Giappone al mondo. E purtroppo ci sono dei momenti come questi in cui lo stock del debito pubblico conta più di qualsiasi altra cosa, e lì l'Italia è in difficoltà, perché non basta una manovrina da mezzo punto percentuale fra tre anni. Ecco, io ringrazio il professor Perotti. Io rispetto a questo ho un giudizio, cioè io dico sì, sono stato tra i primi a dire, un giudizio aggiuntivo, sono stato tra i primi a dire dobbiamo a Tremonti una sensibilità che molti dei suoi colleghi della maggioranza e del governo non hanno, in ordine saldi da perseguire. Io sono di quelli però che considerano tutto l'andazzo dell'aumento della spesa corrente degli ultimi 10 anni radicalmente sbagliato. Io innoverei dal primo giorno la tecnica per il quale si fanno le manovre sugli aumenti inerziali di entrate e di spese, l'ho spiegato decine di volte, occorre una riforma in cui si fa zero budget basis, cioè le spese reali del 2010, non mi interessa continuare a ragionare sui coefficienti di aggiornamento elaborati dalla Ragioneria Generale di Stato su quanto la spesa aumenterà, le tasse aumenteranno, perché le manovre sono sempre su ammontari che colpiscono la gente, ma molto meno di quanto poi in definitiva la spesa comunque aumenta e le entrate comunque aumentano, e questo mi sembra il problema fondamentale di questo paese. Ecco, non aver identificato questo problema ci ha fatto crescere il totale della spesa corrente, tagliando quella per investimento oltretutto, e ci ha fatto crescere il totale delle entrate, cosa che avverrà anche di qui al 2014. Io su questo sono drasticamente contrario, resterò fedele a vecchi schemi reganiani offertisti, farò la mosca bianca, ma io penso che il problema italiano sia questo. Onorevole Rutelli, le chiedo una battuta finale anche per lei, a domanda secca come quella di Boccia. Impossibile immaginare, nel caso in cui resta un allarme, un governo in cui Berlusconi fa un passo indietro, non basta né il passo indietro suo né l'eventuale quello di Tremonti insieme, come ha risposto Boccia, o per voi è diversa la valutazione? Non basta, ma lei però, Giannino, dà un'interpretazione secondo me sbagliata, se glielo posso dire con franchezza, del ricondurre ancora una volta le soluzioni possibili a questo bipolarismo. È evidente che ci troviamo di fronte al fiasco del bipolarismo, cioè il centrosinistra, anch'io ho partecipato come centro, diciamo, riformista del centrosinistra, e abbiamo visto che è stato un caravanserraglio dominato dalle sinistre. Il centrodestra ha fallito, lei si chiede perché è cresciuta la spesa corrente, ma dov'è cresciuta? È spesa delle regioni, Giannino. Sì, sì. E quindi è il patto con la Lega che ha fatto Berlusconi, attenzione. Vabbè, è cresciuta in regioni a destra e a sinistra. Sì, se permette nel Lazio, è quello col peggior sanità, per l'esplosione del debito. Ma 6 miliardi in più di crescita concordati in un anno per la spesa sanitaria, di che stiamo parlando? È evidente che la spesa cresce lì, tragicamente. È chiaro che c'è una criticità europea, perché l'Europa non sta risolvendo il tema greco da un anno, non è risolto, ma è evidente che in Italia c'è spaccatura della più grande maggioranza della storia, che a sua volta, come l'unione di centrosinistra, ha fallito pur avendo dei numeri pazzeschi e un leader certamente riconosciuto. C'è corruzione profonda oggi, parliamo di casi di corruzione enormi che lambiscono i vertici e toccano i vertici del governo. Per me la soluzione è una sola: un governo del Presidente, cioè a dire sarà il Presidente della Repubblica a indicare, usciti da questa condizione in cui le opposizioni debbono dare prova di responsabilità, di non volere far saltare il banco per odio, per contrapposizione politica, sarebbe assurdo, debbono essere pronte le opposizioni a sostenere un governo che affronti le difficili ricette per i tagli della spesa e quelle più coraggiose per la crescita economica. D'accordo. Allora, come vede, però, Rutelli, se io pensassi solo ai due poli, non chiederei a lei poi di aprire e chiudere, quindi come vede accetto la critica, ma la respingo al mittente. Vedremo se il governo del Presidente è un'opzione. Io sono di quelli che pensano che la crisi non si ferma, le forze in atto sul mercato sono tante e tali che vedremo se l'Eurovertice darà una risposta che verrà considerata soddisfacente, una diga sufficientemente forte rispetto al problema greco. Non resta che augurarcelo e augurarci che i rafforzamenti della manovra siano sostanziali. Rileggete il decalogo Perotti Zingale sul Sole 24 Ore di oggi, che male non fa, e per quanto Perotti in un accesso assoluto di onestà abbia riconosciuto che quando anche fosse ministro avrebbe grandi difficoltà a tradurlo in concretezza, forse pensare a compagini di governo in cui i ministri provino almeno alcuna di queste cose non sarebbe una fantasia troppo sbagliata nel nostro paese. Allora, grazie ai nostri ospiti di oggi, grazie a voi che ci avete ascoltato, Linea Generale Radio, appuntamento a domani.